2024 di Enrico Pagliarini. Bentornati, questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Siamo in onda il venerdì sera, domenica tra le 13.30 e le 14. Oppure, come sempre, vi consiglio di ascoltare il nostro super podcast, tutte le nostre interviste in edizione integrale, solo nella nostra versione podcast. Questa settimana iniziamo parlando di satelliti, internet e aeroplani. Nel mondo ci sono oggi più di 6.000 aerei già dotati di hotspot Wi-Fi a bordo, soprattutto sui voli intercontinentali. Molti grossi aeroplani permettono di collegarsi ad internet. Alcune compagnie offrono questo servizio gratuitamente, sono sempre meno, visto che non è più una novità assoluta. Diciamo che il costo di connessione non è bassissimo, o comunque non costa alcuni dollari per comunque pochi megabyte. Rarissime le connessioni che superano i 500 mega oppure un giga. Questo numero di aeroplani che sono dotati di hotspot, e quindi della possibilità di connettersi ad internet, è destinato a triplicare nel giro di 5 anni, secondo le ultime ricerche. Per fornire connettività a bordo di questi aerei sono necessari, ovviamente, necessaria un'infrastruttura, e le strade sono sostanzialmente due: o via satellite oppure via rete terrestre. Però le reti terrestri sono permesse solo all'interno di uno stato, dove c'è tutto un set di licenze. Ad esempio, negli Stati Uniti c'è una società che, con delle antenne a terra che sparano il segnale in alto, forniscono connettività agli aerei all'interno degli Stati Uniti. Ma visto che molti viaggi sono o transoceanici o intercontinentali, quindi passano sopra a continenti, per evitare tutto un problema di licenze, di infrastrutture che dovrebbero fare roaming tra uno stato ed un altro, si usano i satelliti. Per alimentare questo crescente mercato, un mercato molto molto ricco, pensate, ricco al punto che, ad esempio, faccio un esempio, Panasonic, che sta lentamente uscendo da molti mercati consumer dove c'è una concorrenza e i margini sono sempre più bassi, è diventato uno dei principali provider di connettività internet a bordo degli aeroplani. Una delle tantissime divisioni di Panasonic, che si occupa di veramente moltissime cose, come del resto quasi tutte le società giapponesi. Allora, dicevo, un mercato molto ricco. Per alimentare questo mercato, questa settimana c'è stato un capitolo importante, perché un razzo Ariane 5 ha messo in orbita due mega satelliti molto grossi, tecnologicamente molto avanzati, che forniranno connettività internet in volo anche agli aeroplani. Questi satelliti, che forniscono connettività internet, la forniscono a navi, case, magari case in zone non raggiunte da altri sistemi, ma questo mercato degli aeroplani è un mercato sempre più interessante. Allora, questi due satelliti sono di due società. Una si chiama Viasat, società americana, ed Eutelsat, la europea Eutelsat, hanno un valore complessivo di 800 milioni di dollari, un peso di 10 tonnellate, e costituiscono il carico più costoso e pesante nella storia dei voli spaziali. 10 tonnellate complessivamente, uno dei due satelliti è 6 tonnellate e mezzo, l'altro 3 tonnellate e mezzo. Allora, ognuno di questi satelliti ha una particolarità, le cito in pochi secondi. Quello di Viasat, il Viasat 2, ha un peso che supera le 6 tonnellate, circa 6 tonnellate e mezzo, e ha una banda passante, pensate, di 300 gigabit al secondo, ed è il satellite con la maggiore capacità di connessione mai costruito, satellite geostazionari. Quindi il segnale internet dall'aeroplano o da qualsiasi altra postazione a terra fa 36.000 km ad andare, 36.000 km a tornare. E poi, questo dopo il click, no? Poi altri 36.000 km e altri 36.000 km, quindi magari un po' di latenza c'è, però devo dire che poi, provando l'esperienza collegandosi ad internet a bordo di un aeroplano, devo dire che nella maggior parte dei casi i collegamenti sono piuttosto fluidi, a meno che tutti sull'aereo siano connessi, ed è questo uno dei motivi per cui queste connessioni, da gratuite che erano soprattutto nei primi tempi, stanno diventando a pagamento, perché sennò tutti addosso a internet e tutto si pianta. Il satellite invece di Eutelsat è un po' più piccolino, però ha una particolarità: tecnologicamente molto avanzato. Anche questo è un satellite per fornire connettività broadband, andrà posizionato sopra al Pacifico, all'Oceano Pacifico, ed è uno dei primi satelliti con motore elettrico. Questa è una novità nel mondo dei satelliti. Uno dei grandi vantaggi è che il sistema è molto più è molto meno pesante, molto più leggero, e questo è una nuova era, è una nuova famiglia di satelliti. Adesso abbiamo altre notizie, alcune selezionate in breve nelle nostre Digital News. Digital News. Iniziamo con una notizia che arriva da Bruxelles, dove Commissione Europea, Parlamento e Consiglio si sono accordati per mettere a disposizione dei Paesi membri dell'Unione Europea 120 milioni di euro, quindi uno stanziamento secondo le dimensioni europee non elevatissimo, per accendere reti Wi-Fi gratuite per i cittadini. Il programma si chiama Wi-Fi for EU, quindi Wi-Fi per l'Europa, ed è destinato alle zone dove il servizio non è disponibile, in piazze, altri luoghi pubblici. Le pubbliche amministrazioni dovranno fra qualche settimana presentare specifica domanda, perché si tratta a questo punto solo di un accordo, ma tutte le specifiche tecniche dovranno essere dettagliate nei prossimi mesi. Devo anche dire che in quasi tutte le città e anche in molti paesi ormai esistono zone con Wi-Fi pubblico, quindi le aree dove proprio non esiste assolutamente connettività Wi-Fi pubblica e gratuita sono sempre meno. Però l'obiettivo della Commissione, del Parlamento e del Consiglio europeo, quindi delle istituzioni europee, è quello di limitare al minimo, o comunque di ridurre quasi a zero, le zone dove non c'è proprio nessun tipo di connettività. È stato violato il database di OneLogin, un servizio di gestione delle password, una app per gestire le password in un unico punto, quindi un password manager. Gli utenti più a rischio dovrebbero essere quelli serviti dal data center negli Stati Uniti, quindi in teoria gli utenti europei non dovrebbero essere stati colpiti, ma se siete uno di questi clienti a rischio dovreste essere stati avvisati dalla società via email, con tutti i consigli del caso per mettersi al riparo, anche se devo dire, se vi hanno fregato le password, è l'unico modo è cambiare le password, però a tutti i servizi che facevano riferimento alla unica password collegata a OneLogin. Dal 2 giugno sono disponibili anche in Italia gli occhiali da sole lanciati da Snapchat qualche mese fa negli Stati Uniti. La particolarità è che hanno due videocamere ai lati e permettono di registrare, quindi con una prospettiva soggettiva, video fino a 30 secondi. Si connettono allo smartphone via Bluetooth e ovviamente alla app di Snapchat per condividere i video. Costano 150 euro, quindi in bocca al lupo a Snapchat, che ultimamente è preoccupata per la concorrenza che gli sta facendo Facebook, sia attraverso la stessa app Facebook, ma anche e soprattutto da Instagram, che sta crescendo molto non solo negli Stati Uniti ma anche in Europa. Dal 15 giugno verranno eliminati gli extra costi applicati dai gestori telefonici mobili quando telefoniamo o navighiamo all'estero all'interno dell'Unione Europea, e le tariffe applicate saranno le medesime di quelle nazionali del nostro piano telefonico. Il cosiddetto roam like at home, cioè telefonare all'estero come fossimo nel nostro paese, quindi alle stesse tariffe del nostro paese. Ma... ci sono alcune limitazioni, ci sono alcuni dettagli da conoscere. Allora, di questo parleremo tra poco con Gianfranco Giardina, che ha fatto una ricerca, ha realizzato su dday.it una guida completa al roaming. Guida realizzata e scritta da Emanuele Villa della redazione di dday.it, ma ne parleremo per capirci qualche cosa in più. In questa prima parte del nostro primo approfondimento parliamo invece di barche a vela. Parliamo di uno dei database più grandi, anzi il database più grande al mondo di esperienze a vela. Tutto ciò possibile grazie alla tecnologia, è possibile grazie ad internet. Simone Marini è uno dei fondatori di SalesSquare. Benvenuto a 2024. Grazie. Voi vendete online, a te piace dire, esperienze, però visto che già dal nome si capiscono alcune cose, perché stiamo parlando di sales, quindi di esperienze che in qualche modo hanno a che fare con una barca a vela. Siete un database di esperienze in barca a vela, però spiegaci meglio di che cosa si tratta. Beh, in parole povere, SalesSquare è una piattaforma online che connette skipper, esperti e appassionati con viaggiatori desiderosi di vivere un'esperienza a contatto con il mare, consentendo a migliaia di persone di vivere esperienze uniche in barca a vela in tutto il mondo. Allora, cari ascoltatori, dovete sapere che nel mondo ci sono forse milioni di barche e di skipper che mettono a disposizione posti in barca a vela, che magari predispongono anche dei viaggi, e ci sono dei database che raccolgono tutte queste barche con relative esperienze. Voi però che cosa avete fatto? Sì, in realtà quello che esiste sul mercato, che esiste da decenni, è l'offerta di locazione di imbarcazioni a vela. Esistono appunto questi database che raccolgono un po' tutto questo tipo di offerta. Quindi la barca intera. La barca intera. In realtà noi siamo partiti dalla visione, dal convincimento che questo tipo di esperienza non fosse più qualcosa riservato, diciamo, a pochi appassionati, esperti velisti, ma che le condizioni del mercato, e con questo intendo il modo con cui sono costruite le barche, ad esempio, che sono sempre più sicure, confortevoli, eccetera, e dall'altro lo sviluppo di infrastruttura a terra, quindi di servizi che di nuovo rendono questa esperienza più confortevole e più sicura, avesse in qualche modo aperto le porte ad un pubblico molto più ampio di quello a cui si indirizzava e si indirizza tuttora la maggior parte dell'offerta sul mercato, che è appunto quello dei velisti. Quindi la nostra visione è stata quella, in realtà, di rendere accessibile, quindi eliminando tutte le barriere che in qualche modo prevenivano utenti che sono invece semplicemente appassionati viaggiatori, gente che ama esperienza a contatto con la natura, con il mare, di fare, di vivere questo tipo di esperienza. Quindi mi stai dicendo che il mondo prima di voi era un mondo in cui, e ancora oggi per buona parte, un mondo dove io devo mettermi d'accordo con altri per prendermi una barca intera. Cioè trovo, che ne so, una barca in Sardegna e dico, beh, questa settimana potremo prenotare tutto. Sì, assolutamente, è così. Quando io vado a noleggiare una barca a vela, in genere devo comunque convincere altri 6, 7, 8 amici a dividere il costo dell'imbarcazione e gli spazi relativi. La nostra grande innovazione da questo punto di vista è stato invece quello di consentire alle persone singolarmente, in coppia o in piccoli gruppi, di riservarsi il loro posto a bordo delle esperienze pubblicate sulla piattaforma, quindi abbattendo completamente quella grossa barriera, soprattutto per chi non ha magari amici velisti o amici che intendono fare lo stesso tipo di viaggio e di esperienza insieme a lui, di dover formare appunto un equipaggio prima di poter noleggiare una barca. Certo, e tutto ciò è possibile grazie ad internet fondamentalmente. È possibile grazie a internet ed è possibile, è stato reso possibile da SalesSquare grazie allo sviluppo di un modello comunque tecnologicamente evoluto e complesso, che consente di gestire appunto le prenotazioni singole. Quindi di andare a riempire progressivamente un'esperienza, tutti i posti disponibili a bordo di un'esperienza, consentendo però alle persone di prenotare singolarmente. Sì. Voi siete... ti sta stretto il termine startup? No, direi di no. Bene, okay. voi siete già un'azienda che fattura, avete già raccolto più di 2 milioni, giusto? Sì, abbiamo raccolto 2 milioni e 300 mila euro in diversi round da investitori privati principalmente, e da un fondo regionale della Liguria. Certo, che si chiama, diciamolo? Ligur Capital. E non sono pochi 2,3 milioni per una startup italiana? No, non sono pochi. Diciamo che la difficoltà in Italia, oltre a quella che ci sono pochi soldi, diciamo, destinati a questo tipo di iniziative, è quella di lavorare comunque nel digital, quindi nel settore, diciamo, di internet, e rivolgersi a un pubblico di consumatori finali, questo tipo di iniziative in Italia sono viste ancora con un po' di diffidenza. Voi fatturate, dicevo, siete già in attivo, come si dice? No, non siamo ancora in attivo e sarebbe strano, ripeto, per una startup esserlo nelle prime fasi di crescita, perché tutte le risorse sono in qualche modo destinate a sviluppare il modello e il mercato. Cioè, perché fondamentalmente siete operativi da 3 anni. Sì, esattamente. In questi 3 anni, o comunque 4 anni dalla fondazione, avete creato tuttavia il database più grande del mondo. Abbiamo creato la più grande offerta al mondo di imbarchi alla cabina, così vengono chiamate, diciamo, le prenotazioni di posti singoli a bordo di un'imbarcazione, di un'esperienza in barca a vela. Quest'anno pubblicheremo nel corso dell'anno circa 6.000 esperienze in tutto il mondo. Quindi non solo Italia, ma stiamo parlando di tutto il Mediterraneo, dei Caraibi, Sud America e Sud-Est asiatico, per un totale di circa 35.000 posti disponibili a bordo. Ecco, questa è la più grande offerta al mondo di imbarco alla cabina. Grosso modo con quante barche? Dunque sono circa 1.300 gli skipper attivi che pubblicano le loro esperienze. Ogni skipper pubblica più di un'esperienza nel corso di una stagione, quindi però diciamo... Certo. Ecco, facci capire che cosa deve fare e che, quindi qual è il rapporto tra voi e gli skipper. Cioè, io sono uno skipper, ho una barca e decido di quella settimana faccio quel giro, cioè come funziona? Ma allora, diciamo che è un modello molto standard nell'ambito del mercato della sharing economy, dei modelli di sharing economy, cioè ci sono degli skipper che o ci contattano o andiamo noi a cercarli sul mercato, che normalmente già offrono questo tipo di esperienze ma hanno difficoltà in qualche modo a essere visibili, a raggiungere la domanda. Noi consentiamo loro, dopo un processo di naturalmente selezione in cui andiamo a verificare che loro abbiano i titoli, i requisiti, l'esperienza per poter accedere, diciamo, al portale, li abilitiamo e da quel momento loro sono liberi di pubblicare tutte le esperienze che desiderano. Ogni esperienza è caratterizzata appunto da una data, da un prezzo, da un itinerario, spesso si aggiungono delle foto in modo da far capire, diciamo, l'utente finale che cosa andrà poi a vivere una volta a bordo. Te l'avranno già detto in 8.000, quindi magari mi aggiungo, ma è una specie di Airbnb per le barche. Sì, semplificando molto, poi in realtà ci sono delle complessità in più. Sì, è una sorta di Airbnb delle barche, se non che appunto non si, in questo caso l'oggetto è un'esperienza e non un immobile, cosa che eccetera. Si muove, una cosa dove si... E, tra l'altro Airbnb adesso ha iniziato anche lei a rivolgersi al mercato dell'esperienza, ha lanciato pochi mesi fa Airbnb Trips, che è appunto tutta la parte di marketplace dedicata alle esperienze. Quindi. Sì, questo è, non so se dire un trend, comunque ci sono molte offerte su internet. Cito ad esempio un'altra azienda, startup italiana, che è Musement, che è sicuramente una bellissima esperienza, che vende proprio, scusate il gioco di parole, esperienze, quindi viaggi, visite nelle città, musei, eccetera, eccetera. Sì, c'è un grosso fermento intorno a tutto il tema delle esperienze. Diciamo che la maggior parte dei player, tra cui Musement, ma ormai tutti i grandi player del mercato dei viaggi online si stanno buttando un po' in questo, si concentrano più sulle attività e le esperienze da fare nelle grandi città. Quindi esperienze in destination vuol dire a destinazione. Una volta giunti a destinazione, il viaggiatore che ha scelto di visitare quella città può aggiungere, diciamo, al suo viaggio una serie di esperienze che tipicamente sono degli add-on, quindi delle cose aggiuntive rispetto al suo viaggio principale. Il nostro caso invece è proprio il viaggio, l'esperienza è proprio il centro della vacanza. La barca più grande che c'è online disponibile? Abbiamo barche fino ai 70-80 piedi, fino a quasi 30 metri. Quindi che dove stanno magari 15 persone? Beh, in realtà no, paradossalmente all'aumentare delle dimensioni in realtà il numero di cabine non aumenta proporzionalmente, perché si ricerca maggior comfort, quindi un'esperienza più di lusso, quindi se vogliamo, sulle barche più grandi. Quindi non... Tu dicevi prima solo Mediterraneo, ecco la fase di internazionalizzazione. Noi ci siamo conosciuti in occasione di un evento che è stato organizzato in Giappone e anche voi state cercando o investitori o partner industriali non solo in Italia? Sì, allora dal punto di vista dell'offerta, come dicevo prima, in realtà abbiamo già una copertura globale, ovviamente. Cioè, quindi ci sono skipper anche dall'Australia? Ci sono skipper praticamente ovunque, abbiamo skipper, abbiamo pubblicato esperienze in più di 90 destinazioni in tutto il mondo, quindi chiaramente il focus principale è ancora sul Mediterraneo perché è il bacino, diciamo, di eccellenza per questo tipo di esperienze, ma l'offerta è già molto ampia e una copertura praticamente globale. Dal punto di vista della domanda, invece, abbiamo iniziato quest'anno un processo appunto di internazionalizzazione, per cui da febbraio siamo presenti anche in Francia con una persona che svolge il ruolo di country manager da Parigi. A seguire, entro la fine dell'anno, apriremo anche come mercati la Germania e l'Inghilterra. E poi subito dall'anno prossimo anche gli Stati Uniti. Ecco, su questi mercati avremo una presenza fisica in loco. Sugli altri mercati invece avremo un approccio più tattico, grazie a dei partner locali che in qualche modo possono darci visibilità e o agire come canali distributivi. Certo. Voi che cosa avete fatto sostanzialmente? Avete cambiato modello di business, avete innovato con la tecnologia, che cosa avete fatto? Cosa avete cambiato? Perché, diciamo, offrite un prodotto che esisteva già, e questo vale per tanti altri settori dove ci sono prodotti e servizi che esistono già, ma lo avete offerto in modo diverso. Sì, diciamo che fondamentalmente la nostra innovazione è stata un'innovazione, oltre che tecnologica, anche di prodotto, di servizio, nel senso che, come dicevo prima, la maggior parte dell'offerta consta, diciamo, di barche da noleggiare. Noi, partiti da questa convinzione che invece era necessario rendere questo prodotto più comprensibile, più accessibile a un pubblico molto più ampio, abbiamo cercato sistematicamente di abbattere tutte le barriere che in qualche modo ostacolavano l'accesso a questo tipo di esperienza da parte di utenti non velisti. E quindi cosa abbiamo fatto? La più grossa innovazione è sicuramente stata quella di consentire alle persone di imbarcarsi singolarmente, quindi anziché locare un'intera barca, anziché dover costituire, diciamo, un equipaggio a monte, grazie a un complesso sistema di gestione di booking, di prenotazioni di gruppo, perché di questo si parla, siamo riusciti a rendere accessibile appunto questa esperienza anche a persone che non avevano amici con cui condividere la vacanza, ma che anzi magari ne cercavano nuovi amici da conoscere durante l'esperienza. E questo, diciamo, è stato un po' il grosso cambio di paradigma, grazie al quale noi oggi appunto abbiamo la più grossa offerta al mondo di cabin charter, proprio perché il resto del mercato in realtà offre barche in locazioni. Il secondo cambio, che può sembrare più meno incisivo, ma in realtà anche qua ha fatto una grossa differenza, è stato quello di spostare il focus da una barca, che è un oggetto che pochi riescono a comprendere, all'esperienza. Quindi in cui la barca diventa effettivamente quasi un mezzo di trasporto, è solo una modalità con cui si può accedere in modo diverso dal solito a una esperienza a contatto con il mare. Senti, dal punto di vista tecnologico, il grande trend del mobile, verso il quale c'è un'attenzione molto elevata, molti dicono che bisogna assolutamente essere mobile perché tutto succede lì. Dal vostro punto di vista, perché io mi stupisco quando mi dicono che c'è gente che compra vestiti da 500 euro sullo smartphone. Non è che uno compra, ecco, un cavo USB per il computer. No, in effetti il nostro prodotto sicuramente è in qualche modo più complesso rispetto magari a quello di un e-commerce, dove c'è un oggetto ben identificato e riconoscibile. Abbiamo un traffico da mobile elevato, molto elevato, siamo intorno al 70%, e quindi per noi è fondamentale gestire bene questo canale. Lo facciamo intanto con un sito completamente responsive, quindi che si adatta in modo automatico a qualsiasi tipo di dispositivo e di risoluzione dello schermo. In questo momento stiamo anche lavorando molto nel cercare di migliorare le performance da mobile, quindi rendere il sito più leggero possibile per gli utenti che lo visualizzano e lo navigano in mobilità. Ma poi sono molte le persone che prenotano effettivamente da mobile? No, non sono moltissime, però c'è da dire che spesso da mobile uno si informa, guarda e poi dopo, quando deve fare l'acquisto, passa alla modalità desktop, quindi certo, da computer. Dove magari vedi anche le fotografie in modo più ampio. Sì, sì, sì, esattamente. Diciamo che il mobile è utilizzato proprio come strumento di informazione. Per informazione, sì. Senti, dal punto di vista tecnologico si possono fare tantissime cose. Come si dice spesso, è necessaria la fantasia perché la tecnologia è ampiamente disponibile. Che cosa state facendo che potete dire? Beh, stiamo facendo tantissime cose, ovviamente gli stream tecnologici sono tanti. Quest'anno abbiamo iniziato a rafforzare il team interno che si occupa dello sviluppo della piattaforma. Adesso siamo 5 persone e contiamo di assumerne altre 2 entro fine anno. Per citare una cosa che ritengo particolarmente interessante, stiamo facendo un pilota con un'altra startup che si occupa di modelli di dynamic pricing. Quindi sostanzialmente cerca intanto, sulla base dei dati che noi gli passiamo, di stabilire delle correlazioni tra la prenotazione sulla piattaforma ed altri parametri della piattaforma. Una volta stabiliti questi modelli di correlazione, si cerca di capire, in base agli obiettivi che concordiamo, come agire sulla leva prezzo, quindi andando a modificare in tempo reale il prezzo delle esperienze per poter ottimizzare o migliorare le performance rispetto agli obiettivi prefissati. Allora, questa è una tendenza molto interessante, ma mentre mi è chiaro, ad esempio, che ne so, per un cinema, perché abbiamo parlato di prezzi dinamici in occasione di un lancio di un cinema che aveva cominciato a fare prezzi dinamici, uno va al cinema e di solito sa quello che spende. In quel caso si diceva, beh, se c'è un weekend di bel tempo, quindi probabilmente la gente ha meno voglia di andare al cinema, io abbasso i prezzi, ecco. Nel vostro caso quali sono i parametri per abbassare o anche aumentare i prezzi? Cioè, il 15 d'agosto magari aumentate. Ma allora, il bello di questo sistema è che è un sistema adattivo, cioè basato su dei meccanismi, degli algoritmi adattivi che quindi imparano tanto più vengono utilizzati. Cosa vuol dire? Vuol dire che in realtà non siamo noi a fissare i parametri secondo cui il prezzo deve cambiare, ma è il modello stesso che apprende quali sono i parametri che hanno maggiore incidenza e quindi di conseguenza si adatta. Quindi c'è un incremento, un miglioramento delle performance progressivo nel tempo, tanto più questo algoritmo viene utilizzato. Certo, però il vostro non è un servizio last minute, o lo è anche in alcune condizioni? No, diciamo cioè che... Non è che compro la barca per domani. Anzi, è il contrario. Diciamo, il nostro modello premia i primi che prenotano un'esperienza, quindi... Casomai il prezzo può solo salire, ecco, per gli ultimi, un po' come avviene in tanti casi, no? Legato un po' alla scarsità. Quanto più è scarso l'offerta per quel tipo di esperienza, tanto più il prezzo potrebbe eventualmente salire. Certo, se c'è rimasto un posto in barca per il 15 d'agosto, io voglio prenotare il 12, difficile che sia un basso. Beh, a meno che, arrivino delle dinamiche di last minute. Sì, diciamo che nel mercato del travel last minute ormai è un po' scomparso, ecco, quindi... Bene, Simone, bocca al lupo, a presto. Grazie mille, a presto. Riprendiamo questa puntata di 2024, questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Ci trovate su Facebook, Twitter, cercando 2024 oppure Enrico Pagliarini. Ma potete anche scriverci al nostro indirizzo di posta elettronica 2024@radio24.it. Come sempre vi consiglio di ascoltare o riascoltare la nostra puntata settimana dopo settimana anche nella nostra edizione Super Podcast. L'abbiamo ribattezzata così perché ci sono trovate all'interno di questa edizione tutte le nostre interviste in versione integrale, quindi con un buon approfondimento con i nostri ospiti, sempre di alta qualità. Dal 15 giugno verranno eliminati gli extra costi applicati dai gestori telefonici mobili quando telefoniamo o navighiamo all'estero all'interno dell'Unione Europea. Le tariffe applicate saranno le medesime di quelle nazionali del nostro piano telefonico. L'Unione Europea dice roam like at home, cioè telefonare all'estero come fossimo a casa nostra. Ma attenzione, perché le nuove regole introducono anche delle limitazioni e un concetto importante che ripeteremo anche tra pochi minuti, del cosiddetto fair use, il corretto utilizzo. Quindi tutto molto buono, insomma ci sono delle novità benvenute, però è importante conoscere alcuni dettagli per non avere brutte sorprese. Allora ci facciamo aiutare da Gianfranco Giardina, direttore del magazine digitale dday.it. Gianfranco, bentornato a 2024. Grazie e bentrovati a tutti gli ascoltatori. Dunque, Gianfranco Giardina ha avuto la pessima idea di cominciare a studiare tutto il dossier roaming. Dico pessimo perché effettivamente Gianfranco è non semplice, abbastanza complicato. È non semplice perché le regole europee sono, diciamo, nelle grandi teorie molto, molto facili. Cioè è roam like at home, quindi si telefona all'estero come se si fosse a casa. Poi dentro questo tema si aprono milioni di sfaccettature diverse e tra l'altro non si sa bene ancora come evolveranno le strategie poi dei gestori per recuperare in parte magari gli extra, cioè la perdita di fatturato che comunque questo genera, anche se va detta una cosa. È vero che quando noi siamo all'estero facciamo roaming senza pagarlo, poi vediamo a che condizioni, però è anche vero che la stessa cosa accade ai turisti esteri, i tantissimi turisti esteri che vengono in Italia, e quindi le telco italiane, almeno quelle più grandi, più strutturate, cioè quelle che hanno la rete, riceveranno pagamenti da parte delle telco estere per i loro abbonati. Quindi da un certo punto di vista mi viene da dire, non ho dati precisi, ma la bilancia dei pagamenti del roaming è a favore dell'Italia, perché l'Italia è un paese visitatissimo dai turisti esteri. Sì, infatti durante il dibattito che c'è stato nell'Unione Europea in questi mesi, soprattutto il dibattito nei confronti del Consiglio europeo, ricordiamo che il Consiglio europeo, che ha sempre voce in capitolo perché deve approvare tutto quello che succede in Europa, oltre alla Commissione e oltre al Parlamento europeo, il dibattito e soprattutto la tesi degli operatori era proprio, tra i punti che venivano citati, era proprio mirata a questo bilanciamento o sbilanciamento, cioè gli operatori di paesi prevalentemente turistici e di paesi tipicamente quelli del nord che hanno invece flussi di turismo in uscita più che in entrata. Insomma, certo. Quindi sì, questo era un tema. Poi se volessimo approfondire questo tema, ma non è ovviamente tema di questa trasmissione, c'è tutto il dibattito dei costi all'ingrosso e dei costi che devono sostenere gli operatori virtuali. Sapete che anche in Italia, cito i più noti e i più famosi, Poste Mobile o Fastweb, certo, hanno anche la parte di telefonia mobile, ma non hanno una propria rete, si appoggiano sulle reti di altri operatori. Ecco, questi operatori, quando devono garantire il roaming all'estero, devono sostenere dei costi che sicuramente sono più alti rispetto a quelli dei grossi operatori. Hanno i costi ma non hanno gli introiti. Esatto. Sì, quindi diciamo che gli questa mossa dell'Europa è, possiamo dirlo abbastanza tranquillamente, più a favore dei cittadini e della libertà di circolazione dei cittadini rispetto a quella degli operatori. La cosa ci fa piacere, non è che assolutamente ci fa piacere, e devo dire in qualche modo è un bel esempio di Europa Unita, tappa un po' la bocca agli anti-europeisti. Esatto. È un passo avanti veramente importante che, secondo me, anche questo va sottolineato, arriva proprio prima della grande pausa estiva, cioè quindi prima dei grandi esodi. Noi siamo abituati purtroppo ai carburanti che aumentano di prezzo regolarmente prima delle grandi festività, prima dei grandi viaggi, chissà perché. Ecco, invece in questo caso il roaming sparisce non il 15 settembre, il 15 giugno, permettendo a tutti i turisti europei di muoversi più liberamente. Questa è l'Europa che ci piace. Certo. Poi comunque è un primo passo, quindi lo diciamo ai più critici, perché dopo quello che racconteremo alcuni potrebbero dire vabbè, però non è che hanno abolito tutto, e infatti adesso spieghiamo, ci sono dei limiti. Beh, per abolire tutto ci vorrebbero gestori telefonici europei. Quindi il fatto che io faccia una SIM che non è italiana, ma una SIM che è europea. Ecco, questo ancora non accade. Io TIM, ho la SIM di TIM italiana. Questa SIM si può muovere in Europa senza costi e determinate condizioni. Innanzitutto in Europa dove? In Europa nei paesi della Comunità Europea. Quindi tutti i paesi che ne fanno parte, comprese le isole remote, parlo per esempio delle Canarie per la Spagna, ovviamente quella è Spagna, quindi è roaming allo stesso modo, uguale lo stesso dicasi per le colonie, sì, francesi, per esempio, sì, ci, sì, sono. Quindi questo vale in tutti quei paesi. Attenzione, vale ancora ovviamente in Gran Bretagna, di cui ha stabilito, ha deciso la Brexit, ma ancora non è operativa, quindi è a tutti gli effetti valida. Non vale in Svizzera, che tutti sappiamo non far parte della Comunità Europea, ma lo sottolineiamo perché è un paese confinante con l'Italia, sì, particolarmente vicino, e quindi bisogna stare molto attenti. Sì, la Svizzera probabilmente potrebbe entrare, perché ricordiamo che c'è un accordo di libero scambio economico tra l'Unione Europea, la Svizzera, la Norvegia, l'Islanda e il Liechtenstein. Sì. E infatti questi altri tre paesi, esatto, hanno già di fatto aderito, e nelle prossime settimane, diciamo, non subito il 15 di giugno, ma nei giorni subito successivi, entreranno anche loro in questo sistema. Della Svizzera ancora non ci sono notizie, solo indiscrezioni. Aspettiamo, sì, di capire se la Svizzera farà parte di questa comunità telefonica. Esatto. Diciamo, allora vediamo quali sono i limiti. Cioè, quando noi andiamo all'estero e telefoniamo, possiamo farlo tranquillamente, ma fino ad un certo punto. Beh, possiamo farlo alle tariffe che abbiamo in Italia. Facciamo una piccolissima premessa. Ci sono mille casi particolari che potrebbero venirci in mente. Non li trattiamo, perché sennò chiaramente diventiamo pure noiosi e raccontiamo i casi che non sono quelli del 99,5% degli ascoltatori. E quindi noi parliamo adesso di persone che vivono, risiedono in Italia, lavorano magari in Italia, poi parliamo anche di quelli che lavorano parzialmente fuori, e che si trovano a muoversi per turismo o anche per lavoro all'estero. In questo caso, come dicevamo, chiamano e navigano alle medesime tariffe italiane. Poi dobbiamo, sappiamo ormai tutti che la gran parte degli abbonamenti o delle ricaricabili, eccetera, eccetera, sono fatte non più a consumo, ma a soglie, quindi 1000 minuti giga, piuttosto che minuti illimitati. Scusa, 100 giga no 100 giga è difficile, 100 mega, alcuni giga, eccetera, giga, eccetera. Sì, sì. Ecco, in questo caso, se noi abbiamo chiamate illimitate, SMS illimitati, andiamo all'estero e continuiamo a chiamare illimitatamente, non ci sono grossi problemi di sorta, se ovviamente la nostra permanenza, la nostra attività all'estero non è prevalente. Questo dice la normativa. Certo, quindi comunque anche nel caso in cui io avessi 100 minuti, una volta consumati questi 100 minuti, anche quando sono all'estero, poi la tariffa che mi viene applicata extra soglia è quella che mi verrebbe applicata in Italia. Quella che verrebbe applicata in Italia, precisamente. Perfetto. Quella. Quindi però c'è un limite, diciamo che possiamo citarlo subito questo grosso. Ma il limite dice fondamentalmente che l'attività prevalente deve avvenire nel paese in di cui fa parte, cioè a cui appartiene la SIM, quindi nel quale normalmente si risiede. Un'attività prevalente che non è calcolata se non c'è un numero istantaneo, sì, sì, no, ma è calcolata in una finestra di 4 mesi, quindi è un'attività prevalente che è sufficientemente lunga, cioè dovrebbe essere il periodo di 4 mesi è sufficientemente lungo per sterilizzare l'effetto del fatto che io passi 3 settimane in Francia per turismo o per lavoro. Ecco, quello, anche se quel mese io faccio più traffico in Francia che in Italia, nell'ambito dei 4 mesi questo effetto si diluisce e quindi non ho più questa prevalenza. Se invece una prevalenza dovesse registrarsi, qui entriamo nel caso in cui del cosiddetto fair use, c'è una violazione del fair use, cioè dell'uso corretto della normativa. Questo perché? Perché facendo di fatto un mercato telefonico unico di tanti paesi con condizioni tariffarie molto diverse, se non fosse così si creerebbe evidentemente automaticamente un sistema in cui, per esempio, si va a comprare la SIM in Romania, dico una nazione qualsiasi che fa parte della comunità, e perché magari lì le tariffe sono molto basse, e poi la si usa in pianta stabile in Italia. Ecco, questo certo, ovviamente certo, non è consentito, ma devo dire anche, tra virgolette, è giusto così. È bene così, cioè io quello che è importante è che questa è una norma a tutela dei consumatori normali, non a tutela dei furbi, e sarebbe un peccato se per colpa dei furbi si rovinasse un vantaggio per tutti noi. Certo. Questo è un vero vantaggio per tutti noi ed è bene che ce lo teniamo stretto, anche con questo piccolo limite. Che cosa significa attività prevalente però per esempio sui gigabyte? Quindi sul traffico dati, che normalmente cioè, sono pochissimi i casi in cui è illimitato, ovviamente, tutti hanno un limite. Beh, l'attività prevalente è che nei 4 mesi, ovviamente, io ho a disposizione all'estero la metà del mio tetto massimo. Tetto massimo. Se io ho 10 giga al mese, quando io faccio 5 giga e qualcosa all'estero, vuol dire che la mia attività prevalente di traffico dati in quel caso è all'estero. Sì, però è anche vero che essendo calcolato su questi 4 mesi, magari per un mese posso sforare. Per questo dicevo, evitiamo i casi particolari. Nei viaggi normali, nei viaggi di turismo, nei viaggi di lavoro, andata e ritorno, sto qualche giorno, sto anche 2 settimane per un corso, eccetera, eccetera. Il problema non si pone, non si porrà mai. Si pone evidentemente per chi magari risiede in Italia e lavora all'estero. Se uno risiede in Italia e sta 5 giorni a settimana all'estero, beh, diciamo che la sua attività prevalente probabilmente è all'estero, e quindi farebbe bene ad avere una SIM del paese dove lavora e non una SIM del paese dove risiede. Oppure continua a pagare, una volta sforate le soglie, l'extra soglia dei costi di roaming. Oppure continua a pagare. Ma mentre fino a oggi chi era diciamo frontaliero, quindi lavorava da una parte e viveva dall'altra, magari anche proprio a pausa settimanale, cioè tornando a casa soltanto nel weekend, aveva di fatto 2 telefoni con 2 SIM, oggi ne avrà una, deve scegliere semplicemente la SIM del paese dove fa più attività. Contano anche i giorni in cui si sta all'estero, anche qui non devono essere prevalenti, però va detto che se io accendo il telefono anche per un attimo nella mia rete domestica, cioè della mia nazione, quel giorno viene calcolato come giorno non all'estero, non in roaming, anche se poi prendo e vado in roaming. Quindi per esempio i frontalieri che tornano a casa tutte le sere, ecco, in quel caso il problema dei giorni non ce l'hanno, anche se tutti i giorni fanno un po' di traffico dati. Tornando a casa, tutti i giorni sono giorni, fatemi dire, italiani. Certo. Allora, alcuni potrebbero dire, ma questo limite, questa serie di normative che tu hai raccontato e spiegato, sono difficili da calcolare. Perché uno dovrebbe dire, ma come faccio a sapere se la mia attività è prevalente? Cioè, mi metto a guardare quanto sono stato all'estero, quanto ho consumato. Allora, possiamo aspettarci 2 o 3 cose. La prima è che, soprattutto in una prima fase, gli operatori non siano così fiscali e quindi lasciano un po' correre e magari ci arrivino delle allerte. Questo è già previsto dalla normativa, devono avvisare quando ci si sta avvicinando alla violazione del fair use. Però diciamo che io penso, ho parlato anche un po' con alcuni, nei primi tempi insomma si corre anche un po', cioè si lasci correre. Secondo, io immagino che poi le applicazioni che ogni operatore ha comincino ad avere anche questa funzionalità, cioè controlla quello che hai fatto in roaming dentro o fuori dal tuo paese. Questo potrebbe essere una cosa. Assolutamente. Devo anche dire a chi contesta tutto questo set di norme e dice no, avrebbero dovuto creare una Unione Europea vera anche per quanto riguarda la telefonia, e io sono d'accordo con quello che diceva Gianfranco, e se vogliamo arrivare a questo punto dobbiamo volere più Europa, dobbiamo volere sistemi fiscali uniformi, dobbiamo uniformare molte cose per smussare tutte le differenze che ci sono anche sui costi della telefonia. Quindi per arrivare ad una vera Unione Europea con il vero digital single market di cui l'Unione Europea parla spesso, dobbiamo smussare tutte le nostre differenze e volere più Europa, non meno Europa. Su questo sono insomma, molto, molto severo e molto fermo. Ci sono alcune cose interessanti, senza andare a parlare di eccessi o comunque casi particolari. Quando siamo all'estero e chiamiamo l'Italia È come che facessimo una telefonata internazionale, però paghiamo sempre la tariffa nazionale. Siamo all'estero, chiamiamo in Italia e entra nelle nostre soglie, se abbiamo soglie, se no paghiamo la tariffa nazionale. Certo. Assolutamente. Quindi, sì. E la stessa cosa vale se io vado in Francia e telefono in Germania? Allora, il caso più, diciamo, più facile sarà quello che sono in Francia e chiamo in Francia, per esempio, per prenotare un ristorante, dove sono. E lì pago come fossi in Italia. E lì pago come se fosse in Italia, ma dovunque io chiami fisso o mobile all'interno della comunità europea, pagherò la mia tariffa nazionale. Quindi non è più una chiamata internazionale. È come se nell'istante in cui metto piede all'estero, restando nella comunità, il mio paese diventa tutta Europa. E quindi chiamo in tutta Europa come se fossi nel mio paese. Ok? Quindi questa è una strana simmetria, perché se invece io chiamo il ristorante per prenotare il ristorante per la sera a Parigi, ma da Milano prima di partire, ecco lì faccio una chiamata internazionale, probabilmente vengo tariffato a seconda dei piani, dei profili, ma vengo tariffato per la chiamata internazionale. Se la faccio da Parigi, assolutamente no, ma anche se la faccio da Berlino. Quindi è strano, perché all'estero con questo sistema si gode quasi di più tutele, di tariffe migliori di quanto non accada in Italia, anche se io penso che uno degli effetti che vedremo nei prossimi mesi, perché noi stiamo commentando tutte queste cose prima di tutte le reazioni che comunque i gestori avranno, e quindi vedremo dei cambiamenti anche in queste cose, ma io mi aspetto che presto o tardi tutte le chiamate all'interno della comunità europea vengano ricomprese nelle soglie anche quando chiamiamo dall'Italia. O meglio, questo qui sarà un effetto che ci sarà per la competizione normale, e i gestori tenderanno a inserire probabilmente questa voce all'interno delle loro chiamate. Qualcuno ha già iniziato con un cap di minuti magari più limitato, ma attendere credo che proprio sarà così. Allora Gianfranco, adesso abbiamo una pausa, ripetiamo e ribadiamo che molte domande rimangono senza una risposta precisa, perché entreremo presto, dal 15 giugno in poi, in una fase anche di osservazione del mercato. Gli stessi operatori aspetteranno alcune settimane, alcuni mesi prima magari di fare delle scelte che lo stesso regolamento permette loro di fare. Ad esempio, il regolamento permette agli operatori di limitare ulteriormente i giga disponibili. Quindi potrebbe anche succedere che il nostro tetto massimo, quando siamo all'estero, venga ridotto. Questo per un motivo legato sostanzialmente ai costi all'ingrosso che gli operatori devono sostenere, però alcuni operatori probabilmente subito porranno dei limiti più stringenti, altri operatori lasceranno passare e correre magari qualche settimana. Quindi non a tutte le domande possiamo dare una risposta ad oggi, e quindi torneremo magari sull'argomento. Nel frattempo potete dare un'occhiata a questa guida, che verrà ulteriormente aggiornata man mano che arriveranno altre risposte, ma soprattutto poi risposte su alcuni casi particolari, perché la regola generale è quello che succede nella stragrande maggioranza dei casi è chiaro, l'abbiamo raccontato. Dicevo, potete dare un'occhiata a questa guida che potete leggere su dday.it. Breve pausa, riprendiamo tra poco. Riprendiamo questa puntata di 2024, stiamo parlando di roaming all'estero. Roam like at home, dice l'Unione Europea, dal 15 giugno scatterà questa novità, che è una novità comunque molto importante, anche molto sensibile. Poi speriamo che nei prossimi anni ci siano degli ulteriori aggiornamenti in meglio, sempre più a favore del consumatore. Ma devo anche dire, a proposito degli scettici europei, che uno dei grandi risultati dell'Unione Europea sono le tutele dei consumatori. Molte delle tutele, poi possiamo metterci a discutere che si può migliorare, sicuramente si può migliorare, ma quasi tutte le tutele che noi abbiamo oggi provengono da regolamentazioni, da regole europee. È con noi Gianfranco Giardina, potete guardare, leggere questa guida al roaming su dday.it. Allora Gianfranco, alcuni ultimi consigli per i nostri ascoltatori. Quando uno va all'estero deve, anche all'interno dell'Unione Europea, attivare il roaming dati, una cosa che oggi non si fa o non si faceva proprio per evitare di pagare questi extra costi. Dobbiamo anche dire che probabilmente, poi vedremo anche qui gli operatori, attendiamo delle risposte da parte degli operatori, potremmo anche non dover noi agire sul roaming, nel senso che la rete stessa potrebbe favorire l'aggancio da parte del nostro telefonino in maniera così trasparente, senza che noi ce ne accorgiamo. Però, stanti le cose così come le conosciamo oggi, dobbiamo attivare il roaming quando andiamo all'estero, il roaming dati soprattutto, perché il roaming telefonico, quello voce, viene automatico. Questo è un tema importante, cioè per quando, quello che va fatto quando si va all'estero è attivare il roaming dati, perché io non mi collego alla mia rete a cui appartiene la SIM, ma a una rete terza, e devo attivare il roaming dati. All'inizio tremerà il pollice, perché farlo prima, oddio, che cosa succede? Prima del 15 giugno è stato comunque per molti una brutta sorpresa in termini di costi, o comunque se non si hanno opzioni particolari costava comunque molto, nell'ordine di euro al megabyte, quindi il roaming fuori soglio, fuori offerte, fuori pacchetti è sempre stato molto costoso. Da domani, dal 15 di giugno non lo sarà più, quindi è chiaro che bisognerà attivare questo roaming, ma bisognerà anche ricordarsi di disattivarlo in alcune condizioni. Per esempio, vado negli Stati Uniti, ecco, siamo fuori dalla comunità, vado in qualsiasi paese fuori dalla comunità, devo disattivarlo. Come devo disattivarlo anche nell'istante in cui mi porto in un intorno geografico della Svizzera. Per esempio, sono sul Lago Maggiore, non so, a Luino, vedo la costa svizzera del lago, potrei agganciarmi accidentalmente anche per pochi secondi alla rete svizzera, avere il roaming dati attivato e a quel punto vedere il mio credito scaricarsi velocemente. Sì. Quindi, oppure anche San Marino, quindi state attenti. Attenzione, infatti anche quello. Oppure semplicemente transitare velocemente in Svizzera venendo dalla Francia o venendo dalla Germania senza ricordarsi di spegnere il roaming, ecco che anche il passaggio in autostrada ovviamente fa sì che il telefono, anche se non chiamo, se non mando sms, ma sappiamo che gli smartphone si collegano periodicamente per aggiornare le mail, per tutta un'altra serie di scambi dati, e quindi in questo caso farei roaming internazionale non compreso all'interno della, diciamo, della nuova legislazione europea. E quindi bisogna stare molto attenti e devo dire che una curiosità, su iOS 8, quindi due edizioni fa, era comparsa una voce nella finestra dati cellulare proprio di attivazione del roaming UE, quindi Comunità Europea, Unione Europea. Questo proprio perché si poteva accendere un roaming selettivo che funzionava soltanto nei paesi della UE. Poi questa funzione era prematura ovviamente, perché non c'erano offerte da questo punto di vista, non veniva usata, faceva far confusione secondo alcuni, ed è stata deprecata poi nelle versioni successive, quindi non c'è più. Quindi adesso in iOS utile. 10 non c'è più, sarebbe utile, immagino che verrà reinserita, e verrà inserita anche su Android, immagino, e quindi potremo in tal caso scegliere nel futuro di attivare il roaming UE, ma non il roaming magari fuori, extra UE. Certo, così sui confini non abbiamo problemi. Sui confini non avremo problemi, certo. Un ultimo avviso, un'ultima avvertenza riguarda le opzioni. Allora, i piani telefonici sono pieni di opzioni, sono tutto un'opzione. Ed è lì che sono spesso i tranelli. Che cosa è bene fare? Allora, ci sono diverse opzioni sull'estero. Parliamo del mondo pre-15 giugno, che venivano usate proprio a pacchetto. Il primo pensiero che anche noi abbiamo fatto, va bene, ma adesso tutte queste opzioni spariranno, verranno rimodulate, perché non servono più o non servono comunque in Europa. Questo, cioè, abbiamo già le prime conferme, non accade. Le opzioni vengono tenute comunque per il momento quantomeno valide. Questo perché? Perché per esempio alcune opzioni per l'estero non sono solo Europa, o non sono solo Europa paesi UE, riguardano anche altri paesi, per esempio del bacino del Mediterraneo, per esempio tipo la Svizzera, anche tipo anche la Svizzera, gli Stati Uniti, quasi tutti i pacchetti prevedono anche gli Stati Uniti. Quindi se io vado negli Stati Uniti ho bisogno di un pacchetto, e se ci vado frequentemente terrò questo pacchetto attivo. Ovviamente questo pacchetto poi avrà, magari resterà comunque utilizzabile anche negli Stati Uniti d'Europa, fatemi dire così, telefonici. E uno potrebbe dire sì, ma non ha senso, ma magari ha senso perché posso anche scegliere di non intaccare la mia soglia nazionale e andare a lavorare sul pacchetto estero che comunque attiverei perché quella settimana sono anche negli Stati Uniti, perché che ne so, cioè, mille motivi, no? O anche mille dimenticanze. Allora, il nostro consiglio è quello. Innanzitutto, se si hanno dei pacchetti pre-sottoscritti, delle opzioni pre-sottoscritte, che si attivano per esempio alla prima telefonata o al primo SMS fatto all'estero, ma che sono già di fatto tacitamente attivi, il primo consiglio è quello di disattivare questi pacchetti. Perché nella stragrande maggioranza dei casi in cui viaggiamo in Europa, e quindi abbiamo detto che non parliamo di casi particolari, quindi direi nella totalità dei casi quei pacchetti non servono più se viaggiamo in Europa. Quindi disattivarli, perché sennò si rischia di trovarsi una doppia imposizione, cioè anzi non una doppia, la vecchia imposizione anche laddove questa non c'è più. Io credo che attendere, poi questi pacchetti spariranno, verranno rimodulati, sparirà l'Europa da questi pacchetti, ma al momento ancora questo non è successo e quindi attenzione alle opzioni. Gianfranco, grazie, buon lavoro, a presto. Grazie mille. Questa settimana Accenture ha inaugurato a Milano un centro molto bello, molto elegante, tra l'altro nel pieno centro moderno di Milano, Piazza Gaia Aulenti, dove c'è la Torre Unicredit, insomma una delle zone più belle e moderne soprattutto di Milano, dove c'è il Bosco Verticale, insomma molto noto e molto famoso, quindi anche una zona dove insomma gli investimenti immobiliari sono piuttosto importanti. Accenture ha rinnovato e inaugurato il Customer Innovation Hub, che è all'interno del Customer Innovation Network, dove succedono alcune cose. Ci sono alcune riproduzioni di un supermercato, di come potrebbe essere il supermercato di domani, di un negozio dove si comprano vestiti di moda, di come questo negozio potrebbe trasformarsi domani, con schermi, con videocamere che ti riconoscono, che ti fanno delle proposte. La casa del futuro, quindi la smart home, tutto ciò concentrato in un unico ambiente dove le aziende che devono pensare al proprio futuro possono andare a vedere, provare, cercare di capire. Ne abbiamo parlato con Angelo Dimporzano, che si occupa dei mercati retail, quindi della grande distribuzione, dei prodotti di moda, dei prodotti del cibo, che per i quali l'Italia va molto forte in tutto il mondo, ed è Senior Managing Director di Accenture, responsabile di quest'area Consumer Goods and Retails in Europa e America Latina. Qua il tema è di rendere l'innovazione toccabile, sperimentabile, no? Insieme con i nostri clienti. C'è un tema legato alla digitalizzazione del rapporto tra consumatore e marchi, che porta dei cambiamenti nel settore, dei cambiamenti nel modo in cui noi come persone usufruiamo e abbiamo la tecnologia che interagisce con noi nel day by day. Questo porta delle opportunità per le aziende nuove. Siccome Accenture è un'azienda che si posiziona sui temi di trasformazione dei settori industriali, è un momento molto interessante. Abbiamo fatto questo centro qua in Italia perché per i settori di cui stiamo parlando, quindi la moda, il buon mangiare e lo shopping, l'Italia ha un portato non solo locale ma globale ben apprezzato, e abbiamo avuto l'occasione di attrarre un investimento materiale di Accenture sull'Italia e siamo ben contenti di averlo fatto. Senta, qual è il suo parere sulle aziende che devono fare la trasformazione? Hanno capito o questa trasformazione è effettivamente molto complicata? Ed è forse anche uno dei motivi per cui avete creato questo centro, perché laddove c'è nebbia, magari qualche luce, e mettere a confronto le aziende con possibilità concrete può servire a chiarire un po' le idee. Ma guardi, noi abbiamo visto anche nelle esperienze precedenti che abbiamo fatto in maniera un po' più artigianale che c'è un enorme interesse delle aziende ad avere dei punti o dei centri dove si aggrega un po' i passi che ciascuno sta facendo su questo tema dell'innovazione. Come forse dicevo precedentemente, noi abbiamo circa 300 attività con aziende all'anno in questo centro, aziende locali, aziende internazionali che si confrontano su questi temi di innovazione e che ragionano sui temi di innovazione. Per noi questo è un portato molto importante, con cui, ed è un valore che serve a noi e ai nostri clienti per capire come incastrare gli stimoli di innovazione che sono molteplici. Parlando con a seguito per esempio dell'esperienza di Coop del supermercato del futuro, una delle domande che un amministratore delegato di una grande azienda food italiana mi ha fatto, ha detto: voi dovete aiutarci a capire quali sono le innovazioni che possiamo portare a scala e che sono materiali e che creano un valore sostenibile nel tempo, perché di innovazione se ne parla tanto, ma il tema della scala sostenibilità sono le cose che poi impattano la nostra possibilità di fare degli investimenti in innovazione. Su questo credo che sia uno stimolo molto importante a cui stiamo rispondendo con questo centro. Certo, l'esempio del supermercato del futuro è azzeccato, perché non è detto che poi quello si riesca a replicare su larga scala, perché è un esempio. Questa è l'idea, è partito come esperienza con l'Expo, è entrato nella rete vera, nel supermercato vero, e verrà esteso. Abbiamo, per dire, del supermercato del futuro, noi abbiamo avuto negli ultimi 6 mesi più di 15 aziende retail globali che sono venute a Milano a visitare il supermercato del futuro per fare dei workshop insieme per pensare qual è l'impatto della tecnologia nell'esperienza all'interno del punto di vendita. Questo è stato uno stimolo importante. Qui si vedono alcune tecnologie. Sì. Quali sono quelle, secondo lei, più interessanti in questi mesi, diciamo, in questi anni, però già anni, parlando di tecnologie, cominciamo a andare fuori focus, e quelle che appunto possono avere un impatto sul consumatore, ad esempio in un'azienda di largo consumo? Ma allora, c'è tutto. È difficile citarne una sola di tecnologia. C'è tutto il mondo dell'artificial intelligence che è estremamente, estremamente interessante. È estremamente interessante perché proprio cambia le dinamiche tra produzione e utilizzo dei prodotti, e ne vediamo diverse applicazioni. Ne stiamo studiando uno sul mondo della moda, molto interessante, per accorciare i tempi delle collezioni e la creazione delle collezioni per nel mondo della moda. Oggi il time to market è diventato particolarmente rilevante, la capacità di seguire l'evoluzione dei gusti del consumatore e di proporre delle collezioni con un ritmo continuo è rilevante, e l'artificial intelligence aiuta nel costruire dei prodotti con tempi più rapidi e questo ha un immediato impatto sul valore per l'azienda stessa. Poi ci sono tutti i temi legati all'esperienza del consumatore nei diversi momenti di contatto con il marchio. Se le pensa lei stesso come persona, ha un'interazione con la tecnologia abbastanza diffusa nell'arco della giornata, da quando è a casa sua, da quando viaggia, da quando lavora in ufficio o va in un qualunque negozio. Uno dei temi importanti è riuscire a dare un'esperienza contestualizzata e consistente nel tempo con i marchi. Questo vale per il mondo della moda, ma vale anche per i prodotti di largo consumo. Beh, sicuramente questi centri sono importanti per cercare di capire, anche per essere scettici rispetto a certe tecnologie. Ad esempio, io tutte le volte che vado a visitare certe sperimentazioni legate ai supermercati, perché quello di Coop, di cui abbiamo parlato varie volte 2024 e al quale ha collaborato Accenture, è un esempio, ma ci sono varie idee, vari esempi. Beh, insomma, in generale sono abbastanza scettico su quello che succederà nei supermercati. Poi probabilmente mi sbaglierò, ma molte di queste cose non è detto poi che accadano, o comunque non è detto che accadano con i tempi che alcuni pensano. Magari ci vuole un po' più tempo, oppure ci vorrà anche molto meno tempo, però tutto ciò è utile, perché una cosa importante per quanto riguarda la digitalizzazione dei processi e la digitalizzazione del rapporto tra brand e consumatori è che bisogna anche molto sbagliare, perché stiamo entrando già da tempo in un mondo che sostanzialmente è nuovo. Pensate agli editori nei confronti di internet: non esistono esempi di clamoroso successo, perché è tutto molto complicato, tutto molto complesso, però sbagliando si impara, e questo concetto è ancor più vero nell'era di internet, dove è tutto molto fluido, molto veloce, e dove gli errori sono importanti perché si impara molto. Quindi centri del genere, e soprattutto il rapporto che poi si instaura potendo poi agire su queste tecnologie, sono molto importanti. Però bisogna anche avere una certa dose di scetticismo, perché poi se le aziende si bevono tutto, questo porta poi a volte a dei mancati successi, diciamo così. Continueremo a parlarne, perché il tema è sicuramente stuzzicante e soprattutto molto importante, estremamente importante, ne va della sopravvivenza di molte aziende. Questo è 2024, il programma di tecnologia di Radio 24. Io sono Enrico Pagliarini, grazie come sempre per la vostra attenzione. A proposito di domande, dicevo poco fa, parlando di roaming, ci sono ancora un sacco di domande alle quali non abbiamo risposte, ma gli stessi operatori hanno ancora qualche dubbio. Perché? Perché il regolamento offre una cornice, all'interno della cornice possono venire in mente tante idee, e ovviamente gli operatori cercheranno anche di tutelarsi da quello che sta succedendo a proposito di roaming in Europa. Ad esempio, una delle domande alla quale facciamo fatica a dare una risposta è: ma quando andiamo all'estero come ci colleghiamo? Cioè, se noi abbiamo un abbonamento che ci garantisce connettività 4G, siamo sicuri che quando saremo in roaming saremo sempre in 4G? Non è che l'operatore straniero riserva il 4G per i propri clienti, e quelli che sono in roaming non è detto che siano solo gli italiani, magari tutti gli altri siano messi in 3G, perché il regolamento europeo questo non lo dice. Uno, ovviamente l'operatore dice: ma io ti do connettività, ti garantisco il roaming, però invece che 4G sei in 3G. Questo sarà comunque sicuramente un problema. Grazie per la vostra attenzione. L'indirizzo di posta elettronica che potete utilizzare per scrivermi è 2024@radio24.it. Usate anche Facebook oppure Twitter cercando Enrico Pagliarini oppure 2024. Ci risentiamo la prossima settimana.